l'azienda ha presentato un piano di risanamento estremamente pesante, perché la dichiarazione di esuberi è di 615, in realtà poi loro ragionano su 615 full time, in realtà il mondo Carrefour è fatto di tanti lavoratori part time, quindi immaginiamo che l'impatto reale sia di oltre 800 lavoratori. In secondo luogo, a fianco alla procedura di licenziamento c'è un piano di dismissione attraverso la procedura del franchising, quindi la cessione dei punti vendita a piccoli imprenditori, che riguarda ulteriori 1000 lavoratori. Tutto questo collegato a cosa? All'obiettivo di ridurre il costo del lavoro per oltre 31 milioni di euro. Evidente che questa situazione determina una fortissima preoccupazione per la sorte ovviamente di queste 200 famiglie che verranno coinvolte dalla procedura, ma anche per quei 1000 lavoratori che verranno dati imprenditori privati e che si vedranno, se da un lato manterranno il posto di lavoro, vedranno perdere una serie di diritti che avevano acquisito all'interno di Carrefour, come l'integrazione malattia al 100%, e così via. Quindi l'impatto è estremamente pesante per questi lavoratori. Quello che preoccupa maggiormente poi cosa succederà ai 13-14 mila lavoratori che rimarranno, perché di fronte a un'azienda che continua a disinvestire e a ridurre la propria rete di vendita c'è proprio la preoccupazione sulla tenuta del gruppo. Ma quali sono i problemi che hanno generato appunto questa situazione? Come viene giustificata? Perché sappiamo che il settore della grande distribuzione durante la pandemia è quello che ha registrato delle crescite. Infatti, e questo è il problema vero, qui stiamo parlando di un'azienda che fa fatica a stare sul mercato, perché a fronte di un settore che l'anno scorso è cresciuto, questa azienda ha perso quote di mercato. Quindi noi riteniamo che tutto il problema non sia da ricondurre al costo del lavoro, ma sia da attribuire a una scarsa politica commerciale che sono in grado di mettere in campo, dove invece bisognerebbe maggiormente investire sia nell'offerta commerciale, ma soprattutto sulla formazione dei lavoratori, e quindi lavorare maggiormente sul servizio anziché ridurlo, perché crediamo che questo porti ad una spirale che non fa che portare a un peggioramento della condizione della rete di vendita.